Ciao a tutti e bentornati a questa nuova puntata di Radiobook. Io sono Giulia Mastrantoni, ma ormai lo sapete fin troppo bene, e oggi ho un ospite d'eccezione da presentarvi. Si chiama Elena Genero Santoro e chi di voi segue il nostro blog già la conosce molto bene. Scrive spesso editoriali, racconti, scrive recensioni e scrive anche romanzi. È proprio di questi che parleremo oggi. Lavoratrice, mamma e scrittrice di sera. Abbiamo moltissime domande da farle, ma adesso lascio che sia lei a salutarvi. Buongiorno a tutti e grazie per questo spazio che mi dedicate, per me è un vero piacere. Cominciamo con la prima domanda. Scrivi tantissimo e sempre nei ritagli di tempo, ma non ti pesa mai e lo consideri una necessità. Come si è sviluppato negli anni il tuo rapporto con la scrittura e con la lettura? Il mio rapporto con la scrittura è iniziato veramente tanti anni fa, quando ero ragazzina, perché ho sempre amato inventare storie e anzi, addirittura all'inizio ho iniziato col fumetto perché la cosa che mi veniva più semplice, disegnare, mettere fumetti e scrivere quello che i miei personaggi volevano dire. E la cosa che mi piaceva di più era la storia, era quello che il personaggio diceva più che la parte grafica. Infatti dopo un po' smettevo di colorarli e non andavo avanti a colorare, andavo avanti solo a disegnare e comunque a farli parlare. Adesso sono diventata più grande e scrivo nei ritagli di tempo perché purtroppo, o per fortuna insomma, comunque è un lavoro a tempo determinato e quindi devo veramente trovare tutti gli angolini in cui posso dedicarmi a quella che per me è un hobby ed è una liberazione per me, perché per me scrivere è relax, non è fatica. La fatica poi viene dopo, quando si deve rielaborare, quando il testo deve essere migliorato, certamente, ma nel momento in cui creo, penso una storia, me la sogno, per me entrare in una bolla, io la chiamo la mia bolla e sto bene. Quindi anche se sono piena di altri impegni familiari, lavorativi, per me la scrittura è un'isola felice in cui mi rifugio sempre molto volentieri, cercando tutti gli angolini della giornata, soprattutto nel weekend, in cui posso fare tutto quello che mi piace. Leggere è una cosa che mi piace anche moltissimo, è stato un amore però che è cresciuto negli anni ed è stato un passatempo a cui mi sono dedicata di più nella fase adulta della mia vita, dopo aver finito di studiare, dopo aver finito le scuole ufficiali, diciamo. Prima, studiando, uno è già comunque costretto a leggere, era una cosa che mi piaceva fare, ma solo fino a un certo punto. Invece, nel momento in cui ho smesso di studiare, ho cominciato a leggere in maniera massiva ed è una cosa bellissima per me, perché vuol proprio dire entrare in mondi che non avresti mai pensato di visitare, ed è qualcosa che apre la mente e a sua volta dà anche degli spunti poi per creare, per avere altre idee e per scrivere. Io leggo tutti i giorni, almeno 20 minuti, nel momento in cui mi alzo al mattino la prima cosa che faccio è leggere per 20 minuti e poi inizia la giornata. Senza io non ce la faccio, non ce la posso fare. Quando è stata la prima volta che hai letto un tuo racconto ad alta voce e come ti sei sentita? Non ho mai letto un mio racconto ad alta voce, perché la lettura ad alta voce, come anche il canto, è una cosa che mi imbarazza moltissimo, nonostante io abbia avuto anche esperienze teatrali, nonostante io non abbia difficoltà a presentare anche un altro autore, insomma, a presentare un mio libro, a mettermi in gioco, leggere qualcosa di mio e anche qualcosa di qualcun altro è una cosa che invece non mi viene semplice, non so perché. Perché se devo leggere qualcosa di mio è come se io mi stessi autocitando e per indole mia personale mi sembra un po' presuntuoso e anche un po' un mettermi a nudo che non mi piace in quei termini. E leggere le cose degli altri non sono brava, mi impappino, mi dispiace. Quale romanzo tra quelli che hai scritto ti sta più a cuore? No, dai, questa domanda non me la puoi proprio fare. Quale romanzo mi sta più a cuore? È una domanda difficilissima, perché per me è come se fossero tutti figli. Ed essendo figli non si può fare una scelta tra i figli. C'è un figlio che un giorno ti va più a genio perché si è comportato meglio, l'altro ti ha fatto girare le scatole un po', però poi non puoi voler più bene a un figlio piuttosto che a un altro. Per i libri è la stessa identica cosa. Diciamo che ci sono alcuni libri a cui io ho affidato alcuni messaggi che mi stavano particolarmente a cuore. Per esempio, Un errore di gioventù in cui ho parlato della pena di morte. Dopo aver avuto una corrispondenza di 8 anni con un condannato a morte, un condannato nel braccio della morte, che è stato effettivamente ucciso nel febbraio del 2010, ed è un dolore che io ancora mi porto dentro, e dopo 3 anni ho scritto questo libro. Libro che non è piaciuto a tutti, nel senso che tratta un tema che non tutti condividono nei termini in cui l'ho presentato io, e poi effettivamente è un libro anche un po' complicato in certe parti. Però per me è sempre al centro del mio cuore quel libro, ma ci sono anche gli altri perché rappresentano comunque tutti un momento della mia vita in cui io mi sono dedicata a scriverli. E non lo so, per esempio L'occasione di una vita in cui parlo dell'aborto e quando io l'ho scritto ero incinta e avevo una gran paura di perdere il bambino. E allora per esorcizzare questa mia paura io ho scritto questo romanzo che, anche se poi nel mio caso tutto è andato a buon fine, per me è stato un confrontarmi con le mie paure più intime. Invece non lo so, immagino di aver sognato è quello che ho scritto dopo che mio figlio è nato ed era un periodo molto, molto bello della mia vita, molto dolce, molto, molto rilassato. Mio figlio era un neonato favoloso, poi dopo è diventato una peste, ma nei primi 6 mesi era fantastico. Dormiva, mangiava, mi dava tanta libertà ed era bellissimo stare con lui. E in questo momento così di dolcezza tra me e lui, ho scritto questo romanzo a cui sono legata proprio per l'atmosfera rilassata e dolce in cui io mi trovavo quando l'ho scritto. Poi ci sono gli altri due libri che ho promosso negli ultimi anni, che sono Gli angeli del bar di fronte e Il tesoro dentro. Gli angeli del bar di fronte è una storia indipendente che parla dell'immigrazione e mi ha dato moltissime soddisfazioni perché ha avuto un riscontro col pubblico molto buono che io stessa non mi aspettavo, anzi ero molto incerta su quel romanzo lì. Mentre nel libro Il tesoro dentro io racconto la malattia mentale, racconto una schizofrenia, racconto anche la vedovanza, racconto il dolore di perdere la persona amata e quindi ho lasciato parlare certi sentimenti, anche in questo caso certe paure, con una vena gialla poi perché c'è un piccolo mistero da risolvere. E quindi io non posso dire quale mi piace di più o a quale libro sono più legata, perché veramente sono tutti pezzettini di me sparpagliati tra le pagine che il lettore poi pian piano scoprirà. Ti va di raccontarmi tre curiosità sul tuo nuovo romanzo? Tre curiosità sul mio nuovo romanzo. Questa è una bella domanda, perché il mio nuovo romanzo, e questa è la prima curiosità, l'ultimo romanzo che è uscito, cioè Immagino di aver sognato, non è il mio ultimo romanzo, nel senso che avevo dato la priorità negli anni passati ad altri romanzi indipendenti, agli Angeli del Bar di Fronte, al Tesoro Dentro, che sono slegati da tutto il resto. Immagino di aver sognato, invece, è il terzo romanzo che ho scritto e fa parte di una saga, la saga di Future Patrick, che verrà pubblicata nei prossimi mesi, i prossimi capitoli usciranno nei prossimi mesi. La seconda curiosità è quello che ho già anticipato prima, che l'ho scritta nel periodo forse più bello della mia vita, quando mio figlio era appena nato ed era dolcissimo, ed è stato come scriverla insieme a lui ed è stato molto bello. Io mi sono divertita veramente tanto perché era un'estate e poi un autunno lunghissimi, cioè quest'estate si era protratta nel 2000 e 11 fino a ottobre, praticamente fino alla fine d'ottobre c'erano più di 20 gradi e giravamo in maglietta. È stato un autunno eccezionale, quindi io in questa atmosfera estiva continuavo a pensare all'estate che avevo appena trascorso e quindi tutte le atmosfere che avevo vissuto a Imperia, dove sono stata in vacanza prima di partorire, le ho riversate tutte nel mio libro con il sole che mi filtrava dalla finestra, perché è stato veramente un autunno meraviglioso. L'ultima curiosità è che molti di questi personaggi vengono poi citati, appaiono come camei nel libro Gli angeli del bar di fronte, compaiono a spot, anche se non fanno assolutamente parte della trama. Quali opere stai progettando ora? Sui libri che sto scrivendo adesso ho più di una cosa in ballo. L'ultimo canovaccio, perché in questo momento è proprio un canovaccio su cui si deve fare ancora il grosso del lavoro, riguarda l'attentato di Nizza e non so poi se porterò a termine, nel senso lo renderò tale da tentare una pubblicazione, perché è un argomento effettivamente decisamente, decisamente impegnativo, soprattutto perché io conosco Nizza perché ci vado tutti gli anni e quindi ho osato scrivere di Nizza perché conosco la città, però ovviamente nel momento dell'attentato io non c'ero, per mia fortuna. E quindi è stato un mettere insieme tutto quello che io so del luogo, tutto quello che io ho sentito dai telegiornali, mi sono informata, e tutte le paure più recondite che possono venire scatenate da un evento del genere, anche se uno non l'ha vissuto, se lo può immaginare. Però ovviamente l'ansia è sempre quella di non aver reso bene, di non aver scritto le cose esattamente come stanno. Tutta la difficoltà e i problemi che c'erano in quei giorni, in quel posto. Per spiegare questo, faccio un esempio e poi l'ho anche scritto nelle note a fine libro, l'ho già appuntato. Nel 1994 nel mio paese ci fu l'alluvione, perché il torrente che passa in mezzo alla città ha straripato nella maniera più totale, devastando case, negozi, eccetera, eccetera. E mi ricordo che mio fratello era bambino alle elementari, e sia a loro, nella loro classe, sia ai bambini del paese di fianco, che non erano stati toccati dall'alluvione, fu chiesto di disegnare l'alluvione. Loro, i bambini del paese a fianco, la disegnarono azzurra, disegnarono quest'acqua completamente azzurra, bella, limpida quasi, era così divertente con le barche sopra che andavano. Invece noi, che l'alluvione solo a pochi chilometri di distanza l'avevamo vissuta, sapevamo che non era così. Infatti mio fratello non aveva questa immagine bucolica, lui l'aveva vista l'acqua, aveva visto la devastazione, aveva visto tutti i detriti, aveva visto le case, i negozi devastati e sapeva benissimo che l'acqua era marrone. Ecco, l'ansia nel momento in cui uno si mette a scrivere una cosa più grossa di sé, insomma, una tragedia che ha scosso il mondo, è il pericolo poi di disegnare l'acqua troppo azzurra. Quindi ci sto lavorando. Se esce qualcosa di decente, se avrò anche dei riscontri positivi, magari tenterò poi di pubblicarlo. Se no, può restare tranquillamente nel cassetto, perché non è detto che tutto quello che viene scritto debba essere necessariamente pubblicato. Come pensi che si evolverà il mondo dell'editoria indipendente? Sull'evoluzione dell'editoria indipendente non ne ho la più pallida idea, in tutta sincerità. Vedo quel che è capitato dagli anni passati fino adesso, che comunque l'editoria indipendente, sia come self-publishing che come piccoli editori, ha dato sicuramente grosse possibilità a persone che non avrebbero potuto mai accedere a una grande casa editrice. E quindi questa sicuramente è stata una buona opportunità per molti. Qualcuno è anche diventato famoso, qualcuno è anche riuscito ad affermarsi con l'editoria indipendente, quindi sicuramente qualcosa di positivo che dà un'opportunità in più, e in un certo senso forse anche più democratico, perché in fondo chiunque può pubblicare, se poi l'opera è meritevole o, anche se non piace alla critica, ha un bacino d'utenza e qualcuno che l'apprezza, l'opera continua a diffondersi, altrimenti no. E in questo mi sembra una cosa positiva. Sul futuro io posso solo pensare che continueremo in questa direzione, però non ho altri scenari da proporre. Hai dei consigli per gli scrittori emergenti? Sì, un consiglio per gli emergenti ce l'ho. Ce l'ho perché non è mio, è una frase di Terry Pratchett che è bellissima e che ho pubblicato anche sulla mia pagina perché l'ho trovata veramente di ispirazione, dice quello che ho sempre pensato. Ve la leggo, dice: mi stai ascoltando? Sì. Bene, allora, se hai fiducia in te stessa, sì, e credi nei tuoi sogni, sì, e segui la tua stella, sì, verrai sempre e comunque battuta da chi ha passato il proprio tempo a lavorare sodo e studiare, accantonando la pigrizia. Arrivederci. Ecco, io la trovo bellissima perché penso che comunque più di un estro, un talento, un'idea così che uno si fa, che può avere del genio, della bravura intrinseca, penso che di base ci sia un gran lavoro sodo che uno deve fare per migliorarsi sempre quotidianamente, tutti i giorni. E quindi come consiglio per gli emergenti, ma per chiunque, secondo me, è di continuare a lavorare, provare, provare, provare, alla fine. Gli obiettivi si possono anche raggiungere, ma nulla arriva per caso, insomma. Questo è quello che posso consigliare. Grazie mille per essere stata a questa puntata di Radiobook, sono felicissima di averti avuto qui. Io vi ringrazio moltissimo per questo spazio che mi avete concesso, è stata una bellissima intervista, ha delle domande interessanti e vi auguro tante belle cose. Baci baci. Adesso, come di consueto, leggeremo un estratto, e sì, è un estratto del tuo libro. Leggeremo Immagina di aver sognato, della nostra Elena Gianero Santoro. La febbre lo coglieva sempre al momento di andare a dormire. All'inizio non l'aveva capito subito. Pensava che fosse stanchezza. Credeva che tutto quel sudore e quella spossatezza fossero dovuti ai primi caldi. Ma poi il disturbo si era fatto più intenso e il disagio maggiore. La difficoltà a prendere sonno crescente. Ovviamente il giorno dopo si sentiva uno straccio, ma non poteva permettersi di fermarsi. Massimo gestiva una casa di accoglienza per donne in difficoltà. Al mattino insegnava religione in una scuola superiore e nella restante parte del tempo si occupava dei suoi figli, Sergio e Caterina, che la sua ex moglie Liuda gli aveva gentilmente scaricato quando era partita per la sua tournée come ragazza immagine nelle discoteche romagnole. La stagione estiva stava iniziando e i locali della Riviera Adriatica cominciavano a popolarsi di turisti. Liuda sarebbe stata impegnata fino a settembre. Lui non si era opposto, sia perché in fondo era contento di tenere i bambini, e sia perché era consapevole che gli introiti della moglie, derivanti da quello squallido lavoro, erano tuttavia necessari, anzi indispensabili, per continuare a foraggiare la famiglia, seppure divisa. Così Massimo era da solo con i bimbetti, di 4 e 3 anni, e si barcamenava con sempre maggiore difficoltà. Che qualcosa non gli stesse andando per il verso giusto se ne erano accorte anche alcune volontarie, quelle che gli davano una mano nella casa. Lo avevano visto veramente a terra, gli avevano chiesto se stesse bene, gli avevano fatto notare che era molto dimagrito, gli avevano domandato se mangiava a sufficienza. Lui non ci aveva neppure fatto caso, anche perché raramente si curava di quello che ficcava in bocca. L'unica ragione per cui metteva in tavola pranzi e cena erano i suoi figli. Se non avesse avuto loro, il suo regime alimentare sarebbe stato ancora più disordinato. Nel frattempo a Londra. Futura stirava camicie da uomo e ripensava alle parole che Patrick le aveva detto la notte precedente. Un bambino, suo marito voleva un bambino. Questa idea la emozionava parecchio, la lusingava persino, ma la lasciava anche un po' perplessa. Ciò che lui aveva organizzato per il suo compleanno, la cena, il dopocena, il regalo, era stato assolutamente perfetto, fantastico, favoloso. Lui sapeva essere meraviglioso in determinate occasioni. Romantico, premuroso, tutto ciò che una donna potrebbe desiderare. Ma ovviamente non era così tutti i giorni. Da quando si erano giurati amore all'altare, 10 mesi prima in Italia, il loro rapporto, che durava già da alcuni anni, aveva subito un'ulteriore evoluzione, o meglio, un'involuzione. Patrick si era, diciamo, un po' seduto dopo il matrimonio. Nonostante la convivenza già in atto da tempo, con le nozze le dinamiche relazionali tra i due erano mutate ancora. Nulla di drammatico o che facesse rimpiangere le scelte effettuate, per carità. Piccole cose, eppure. Nell'ultimo periodo, tutte le volte che lei chiedeva una mano in casa, si sentiva rispondere: «Sì, adesso lo faccio». Ma dunque Patrick tergiversava e cominciava a dedicarsi ad altro, oppure non si staccava da quel dannato computer. Portava sempre del lavoro a casa. E alla fine, per esasperazione, era sempre lei a caricarsi di compiti ingrati e a portare avanti le faccende domestiche. Quando poi lui la guardava interdetto a faticarsi e, cadendo dalle nuvole, commentava: «L'avrei fatto io più tardi». Lei rispondeva seccata: «Come no, se aspetto te le forze del caos ci sovrastano». Futura ammetteva di essere la più nervosa tra i due. Patrick era decisamente più flemmatico, ma se lei era fissata con l'igiene, il cibo biologico, i detergenti naturali, lui andava nel panico quando non trovava alcuni suoi oggetti nell'esatto posto in cui avrebbero dovuto essere. Così sapeva essere abbastanza scorbutico quando i suoi adorati CD non erano perfettamente in ordine o quando i suoi libri d'arte venivano spostati per qualunque motivo. Inoltre Patrick era un workaholic. Non riusciva mai ad uscire dall'ufficio in tempo e anche a casa continuava a lavorare. Nei mesi, inoltre, quel suo difetto era peggiorato ulteriormente. La sua carriera era decollata e a lui erano state assegnate maggiori responsabilità. Quindi dedicava sempre più tempo al suo impiego e sempre meno alla vita privata. Futura realizzò con terrore che, qualora fosse nato un figlio, la maggior parte delle mansioni sgradevoli sarebbero toccate a lei. Per quanto desiderasse un bimbo, quello che le si prospettava non era un quadro rassicurante. La giornata lavorativa stava quasi giungendo al termine, quando il nuovo capo, Lucas Smith, convocò Patrick in ufficio. «Come sai, sono molto soddisfatto del tuo operato, qui da noi alla Ansel House, perciò ho deciso di affidarti anche la supervisione del nuovo sistema operativo che dovrebbe essere terminato entro il prossimo ottobre». Patrick sorrise soddisfatto, e il capo continuò: «A tale proposito ho intenzione di affiancarti una mia collaboratrice molto valida che già conosci e che ha chiesto espressamente di lavorare con te. Venga, Miss Hudson». Primo tra tutti, Patrick riconobbe il profumo. Una fragranza sofisticata e un po' nauseante, completamente diversa dalla fresca acqua di rose che adoperava Futura. Fu come un fulmine a ciel sereno. Patrick si voltò e esclamò: «Claire? Anche tu lavori qui? Pensavo che ti fossi trasferita negli Stati Uniti». «L'ho fatto», si affrettò a rispondere lei, «ma sono tornata sui miei passi». Poi Patrick si rivolse al capo: «Lucas, mi dispiace, ma non posso lavorare con questa persona. Affiancami chiunque, ma non lei». Claire se l'era aspettato. «Mr. Smith, capisco il punto di vista di Patrick. Mi lasci parlare da sola con lui e vedrò di convincerlo». Anche per oggi la nostra puntata termina qui. Non vedo l'ora di sentirvi la prossima settimana. Ciao a tutti!